Diciamo che dal punto di vista così, della classifica è Treviso la sorpresa del girone in questo torneo, questo è pacifico. Dal punto di vista societario e dell'impostazione del progetto fatto assieme al mister, no, perché qualcuno si sa già dimenticato, io agosto ho detto che comunque fosse la categoria, il Treviso sarebbe stato competitivo e oggi l'ha dimostrato ancora di più. Essere primi ti qualifica di tutto questo. Però la strada è ancora lunga e dobbiamo restarci fino a metà di maggio, perché se molliamo un attimo, voi sapete cosa significa, diventa tutto più complicato. Quindi diciamo che siamo tranquilli, siamo convinti e tutto quello che si è visto è un giusto risultato dell'organizzazione e del progetto. Tra l'altro, non solo lei, l'organizzazione che ha permesso che questa sia l'unica partita del girone C che si è disputata. È vero che la federazione ha puntato tanto su questa società e voi avete risposto da grande società. Sì, questa è stata una vittoria proprio della società perché ieri mattina ci siamo incontrati verso le 11:30 sul campo, abbiamo visto che c'era parecchio lavoro da fare, abbiamo programmato come qua gli interventi da fare e oggi avete visto che il campo era perfetto perché giustamente si poteva giocare come sempre. Ecco, adesso lei ha anche rinforzato la squadra perché effettivamente questi tre regali di Natale sono arrivati, sono arrivati questi tre ragazzi che sono comunque valore aggiunto a questa squadra e adesso Treviso non si deve più nascondere, diciamo, per gli addetti ai lavori non è più una sorpresa. Sì, abbiamo preso tre ragazzi, uno per ruolo, un difensore, un centrocampista e un attaccante. Avete visto oggi quei due che hanno giocato, ma soprattutto l'attaccante, il fiuto del gol, come è entrato, come ha messo dentro quel pallone in maniera proprio da bomber vero. E noi lo conoscevamo perché lo seguivamo da un po'. Siamo convinti che alle volte le squadre per rinforzarsi e per aumentare il tasso di qualità non basta prendere il nome, ma il giocatore giusto. Noi siamo convinti di aver preso tre giocatori giusti. Parliamo un attimo di questa società, se l'aspettava così, cioè lei sta costruendo quel sogno di cui ci aveva parlato questo luglio quando ha presentato la sua nuova società. Sì, la società si sta irrobustendo. Sta diventando qui la società aziendale, territoriale che avevamo messo sul tavolo a giugno e che oggi posso dire ci sono parecchie aziende, parecchi personaggi che sono vicinati, che stiamo concretizzando anche un progetto a lungo termine, molto più così di categoria superiore, non voglio dire di più perché è troppo presto, comunque programmando sulla tua categoria superiore. E gente di primo piano, gente che ama Treviso e gente che ha il cuore biancoceleste. Ti chiedo quest'ultima cosa, vedere un imprenditore del territorio trevigiano che va a salvare il Bologna. Lei ha detto che qui un po' di risposta c'è stata nel territorio, si aspetta che qualcuno l'aiuti a rendere ancora più grande questo Treviso? Ma guardi, a Bologna è andato uno che porta il caffè. Noi abbiamo bisogno dell'antipasto, del primo e del secondo, anche del dessert.